CF o dalla COSO, le montano su delle casse, per fare un nome qualsiasi, GPL, che tanto per dire un nome, poi dice no, sono buffe GPL, ma li ha costruiti su specifiche, le ha fatte la RCF o l'acciare, come è successo per tanti prodotti. Se lo fate capire, gli outline è lo stesso, gli outline li costruisce la BCE, però vengono cartonizzati, in pratica funziona, avevano fatto un esempio, mi hanno detto una cosa, non so se è vero o è, però ho notato che più o meno è così, pratica è come l'olio motore, dicono c'era questo olio Blitz, dice che aveva, che era uguale al selenio, ma non ho capito ancora che una cosa, che sì, l'olio Blitz può avere le stesse caratteristiche, è lo stesso olio, diciamo che la Blitz è la casa madre degli oli, però poi la selenia lo porta in stabilimento, la selenia poi mette i propri additivi, è la cazzo lo stesso, quindi potrebbe essere sì tutto olio Blitz, però poi ogni casa madre per una Giulietta ci vuole cosa non lo so, mettersi in selenia e c'ha i suoi additivi, per la Volkswagen il monta il Castrol, mette gli additivi, però sono tutte cose che lo vedi, devi prendere, devi guardare le specifiche, così per i coni. Io i coni ci sono gli outline, se tu li guardi hanno lo stesso cestello, lo stesso magnete, è la stessa, ma la questione diciamo della bobina è uguale ai BC, però BC li costruisce apposta su specifiche outline e li fa sospensione pneumatica, semipneumatica, rigida, e così le case madri possono dire e li marchiano con outline. Così era per le trombe, per i driver, c'erano i driver che usavano la Turbo Sound che erano i B e C uguali, solo che Turbo Sound cosa faceva? Gli faceva fare, li costruivano apposta con una guida d'onda, d'onda che caratterizzava il suono della Turbo Sound. Il montaggio della guida d'onda da un tutto bruciato lo mettevi in un 10 ed era uguale anche gli ohm, sia ohm e mezzo, uguale, stessi attacchi, stesse addirittura la super, perché c'hanno della roba, la membrana è fatta in titanio, anche la membrana è in titanio, uguale identica, riprende roba. Sì, è vero, così purtroppo, come la SB faceva su specifiche, ci faceva fare, ti ricordi la serie 7, quelle che all'epoca erano dalle casse fenomenali in tutto il mondo, ammirate dai più grandi sale di coso, di sale del studio di registrazione, le SB faceva delle bellissime casse, si faceva costruire gli altoparlanti dalla Ciare su specifiche, esattamente con quelle caratteristiche, l'ingegnere Giussani si faceva fare quel tipo di altoparlante e andavano bene, così le Fostex se le faceva mettere su delle casse bacchiate, magari adesso non mi vengono i nomi, però ce n'erano tante di casse, mettevano componenti della Fostex, Electro Voice, Gauss, eccetera eccetera, le marchiavano col nome che mettevano loro, le Martin, e poi li mettevano magari un altoparlante GBL o cosa vuoi che ti dica, era soltanto questione commerciale, boh. Chi faceva l'altoparlante non erano tantissimi al mondo, almeno a certi livelli. Un giorno mi è capitato di andare, non so se te l'ho detto, credo di no, da Macedo è venuta questa motocarrozzella, un'AP 50, era piena di altoparlanti GBL, Fostex, Gauss, ma mega woofer di quelli da 18, da 21, bestioni, e tutti in alluminio e cose, cestilli, con i coni rotti, bastava sostituire i coni, ma una motocarrozzella ne ha portato questo, per pagarsi a prezzo di alluminio, era un peccato vederli con gli altoparlanti. Sì. Io alcuni cestelli me li ho riconati, però cestelli importanti tipo GBL, anche qualche Yamaha, cioè qualche serie della Yamaha hanno fatto un bel cono, anche la Yamaha ha fatto un bel cono, però sempre a livello di pilotaggio classe D, sempre per delle basse frequenze. anche la Yamaha faceva dei bei coni, ma la Yamaha le facevano, era proprio, sono proprio coni fatti da loro, la Yamaha sono proprio coni Yamaha originali, non trovi specifici, non trovi, diciamo, somiglianze oppure ditte che fanno quei coni lì. La Yamaha fa proprio Yamaha, costruiscono loro i coni. Poi niente, e adesso sta costruendo autoparlanti anche la QSC, usa autoparlanti di proprietà, non sono né BEC né RCF né niente. E poi adesso c'è una nuova ditta che si chiama, cercalo su internet se lo vuoi, si chiama La Voce, tutto attaccato, La Voce Italiana. È un miscuglio tra RCF e BEC. Ho comprato qualche cono io dei 12 pollici, ho comprato 8 coni da 12 pollici per delle tette, e ti devo dire una cosa, perché io quei coni li ho pilotati anche, sono coni 8 ohm, sono 350 watt RMS l'uno, 700 di piccoli l'anno, e l'ho portato con finali anche da 1200-1300 watt RMS spinti per 8 ore, importante se non gli dai il clip in finale, sono autoparlanti validissimi e suonano bene, ho visto anche dei coni da 18 pollici della Voce Italiana, e sono fatti veramente bene, robe. C'è il thread in alluminio, c'è la serie oggettello in ferro, che quelli non servono a niente, sono la serie economica, però fanno anche la serie PA, che sono dei componenti professionali, e sono veramente belli. E poi stanno costruendo dei driver a compressione al neodimio. Ne ho preso due io a Sassari, al neodimio, sempre della Voce Italiana, ho fatto 100 euro l'uno, ma sono tre velini da niente, sono tre velini che sono un po' più grandi di un tappo di bottiglia, al neodimio. 120 watt continui, ho preso per un paio di HK, per l'HK allora, per l'impianto. Devi sentire questi driver, pesano niente, schicchiano come la malasorte, belli. No, questo marchio non ho avuto il piacere di conoscerlo, marchio italiano. Io con la compressione c'ho di quei monitor, erano dei ex monitor RCF, sostituito l'altoparlante con dei ciare, rifatto il crossover, c'è quello da 15 pollici, mi sembra che sia il woofer, e il tweet è stato sostituito con quelli sempre della ciare a compressione, c'ha una potenza da paura, reggono una marea di watt, una sensibilità da paura, e ha sostituito, c'erano quei Twitter, te ricordi quelli della RCF che erano arancioni, che li chiamavano spaccatimpani, che tutte le discoteche li mettevano, erano una cosa spaventosa da cosa tiravano fuori, anche se magari qualitativamente non erano granché, ma c'erano una efficienza, una sensibilità da paura, ti spaccavano, li chiamavano gli spaccatimpani, che erano fuori misura, era quanto un altoparlante da 20 centimetri di cosa, di dimensioni. Infatti per mettere quel Twitter dell'acciaio ho dovuto fare una flangia di riduzione, perché non se ne trovavano da nessuna parte di quei Twitter. Penso che li conosci. Sì, cioè, li conosco. Ci sono ancora, se tu vai a farsi fa, ci sono quelli. Montati su un impianto della Picker Sound. Ci sono quelli. Usavo anche Picker Sound quella roba lì. L'impianto del pazzi fa, l'ho fatto io, insieme a un amico. Se va Davide. Dopo che non era venuta a mancare Pedrazzini, aveva preso un ragazzo di Sassari e avevamo rifatto l'impianto tutto quanto, lì c'era un Picker Sound con tutti i componenti comprati, tutti i componenti originali della Picker Sound, è un impianto di dentro, ci sono quasi 12.000 watt di impianto dentro, e tu considera che non c'era forza, l'impianto è tutto appeso, è un 3 vie, bugia è un 4 vie, è un sono quattro vie, perché sono quattro su quattro singoli 18, spazi per la sala, e poi ci sono sopra appesi solo i medio bassi, che sono da più doppio 15 pollici, caricati a tromba, e poi ci sono le trombe, hanno due trombe da 3 pollici di quelle lì. Comunque i filtri. Tutti i compressori da Picker Sound, i finali Picker Sound, è un impiantone. Quello lì, cioè, forse in Nord Sardegna ce ne pochi, e alla pari era forse Blue Star quando aveva le Spectra, era, sì, era lui. Adesso c'è un po' di roba, c'è un po' di roba in vendita, c'è un bel po' di roba in vendita, perché bisogna adesso la ritrostagione compri prima la attrezzatura nuova, però vabbè, non la vogliamo pagare, ci sono i marchioni in giro. Poi di marchio prestigioso che adesso sta andando alla maggiore, le Scanspeaker le vendono da tutte le parti, sono degli ultimi prodotti. Ma scusa, lei? Scanspeaker. Non la conosco. Cavolo. Tutti i grossi impianti, diciamo, parliamo non tanto di PA, parliamo di hi-fi, usano quel tipo di altoparlante. Hanno delle prestazioni da paura, qualitativamente a massimi livelli mondiali. No, non le conosco, Roberto. Vabbè, l'hi-fi è un po' che io non lo... cioè io ce l'ho l'hi-fi, però è un po' che non seguo, che non mi aggiorno, sull'hi-fi. Io le più belle che ho avuto sono state la scala e mi sembra che avevo anche detto che c'avevo le pipsi, la scala. Lo sai che il Blue Star ha ancora i sub, ancora dei sub clips. Se tu guardi, se tu dovesse capitare, tu guardi sotto la console, vedi proprio i caricati a tromba doppio 15 della clips, e quelli non li cambieranno mai, sono delle bestie. Te l'avevo detto, all'epoca io andavo a Blue Star, vabbè, a ballare per sentire le clips, era una cosa da paura. Vicino alla cabina di Gedi, lì erano sotto quei cassoni da paura, aveva un impianto, li aveva fatto l'ingegner Meloni di Audiolina con Mario Nottari, era un impianto. All'epoca ce n'erano pochi di discoteche con quei livelli qualitativi, dico, perché altri mettevano rumori, andavi al Biblos, c'era quel cavolo di Twitter a tromba della Fossex, ne uscivi sordo, tutta distorsione, al Marini uguale. Le casse del Marini, quelle RCF, le ho recuperate io, perché erano buttate da una parte, le ho messe da parte, le ho ripristinate tutte. Uguale alle mie, queste RCF, quelle grosse, col woofer da 15, Twitter quello gro, le ha preso un amico mio che vende roba usata, vintage e cose, le ha trovate a Cagliari a 2,50 la coppia, bellissime, perfettamente funzionate, mi stava salendo il tiribicchio di prenderle, poi le ha preso un altro amico mio e le ha vendute a 300 euro e volevo solo provare a confrontarle con le mie modificate per vedere cosa, che differenza di suono c'è. Cioè, infatti quando capita dico pensamene una e le proviamo a confronto se ha migliorato la qualità, io penso di sì con il lavoro che è stato fatto nelle mie. Comunque le clips, quelle la scala, stiamo parlando già di prodotti di un certo alto livello, di un costo molto molto alto, non è per tutti. Clips per chi sono amanti del tocco, diciamo, del rumore, della quantità di suono e qualità allo stesso tempo, clips probabilmente è il numero uno, pochi riescono a stargli dietro, ma è di qualitativamente trovi qualcosa di meglio, ma con quella sensibilità e quell'efficienza non lo so, forse si potevano avvicinare le JBL, quelle le serie professionali. Però quelle erano per uso domestico, quei livelli di sensibilità non ce n'era almeno, adesso magari qualcosa lo trovi. No, non è troppo, ma vabbè, sto parlando di livelli qualitativi di... scusate, sto passando la sfida propria, ogni volta che mi metto a parlare in radio. No, l'Eclipse, allora guarda, con l'Eclipse tu devi sentire, vabbè, io ti parlo a livelli di musica strumentale, di lirica, perché quelle casse io devo ascoltare con quella musica, perché se tu mettevi una canzone, cioè mettevi una discoteca, quelle casse erano solo sprecate, anzi le rompivi, se le rompevano, perché erano piccoline come vantaggio, poi avevano il cono da 15 pollici, ma essendo in casa chiusa, non avevi quella botta, avevi sì la botta, la facca, però era un suono, erano fotoparati, cioè dedicati a un certo tipo d'uso. E, no, le teste, quelle del Vulcan ce le ho io, le Spectra, quelle le ho ritirate io da Marco, da un amico. E loro hanno ancora tutti i finali, però le teste ce le ho io, le ho ritirate io con le casse lì e le uso per noleggiare le carri di carnevale. Abbiamo messo 4 Spectra e 4 W18 delle 8 line, e sono quelli che ho io sui subito i carri, sono gli 8 line, i disco, gli 8 line disco, formula disco, disco, adesso non mi ricordo come si chiama. Hanno tre, qui sub hanno diciamo tre caricamenti diversi di reflex, e sono a tromba, sono caricati a tromba rovesciata più reflex, fanno paura. Si chiamano Victor Disco, ecco qua, sì, Hotline Victor Disco. Tappa, quell'amico mio, che fa lo stesso mestiere tuo, adesso non mi viene il cognome, devo cercarlo, lui c'ha l'Eclipse Eresi, e me l'ha fatta sentire a casa sua, non può alzare, perché era affittuario di mio padre, questo Antonello, che fa service e tutto, da tutte le parti, che gira. Ti posso dire, non so quella cosa bene alla scala, però nel loro piccolo l'avevamo vista, funzionavano, che era meraviglia. Naturalmente devi ascoltare certi generi musicali, e certo se ti metti a ascoltare musica a discoteca è uno spreco, però se ascolti musica rock con un bel valvolare te ne butta interno a casa con pochi watt, c'hanno una resa con le casse, vogliono molto posizionate bene, nel senso non è che le metti e le butti così, devi trovare la giusta posizione, ma c'hanno quella tromba sopra per i tweeter micidiale, poi bei bassi, un altro parlante molto equilibrato, considerando che sono delle casse che hanno 40-50 anni di tecnologia arretrata rispetto a quelle di adesso, l'altro parlante magari trovi molto molto di meglio a livello di tenuta e potenza, però all'epoca erano, stavamo parlando del top per impianti di alta efficienza. Quella chi le ha ancora non le vende, chi ce le ha se le tiene stretto e non le dà, non le dà, perché sono considerate ancora il numero uno. Sono ancora il numero uno, io mi sono pentito comunque. Va bene così. Antonello, non lo conosco. Noi abbiamo l'Outline stesso, noi abbiamo il Mantas, l'Outline, se tu vuoi prendere appunti e li guardi, noi abbiamo l'Outline Mantas per il service, e 8 sub, 8 per 18 GTO, te la dico francamente, ci sono quasi 350.000 euro di audio, 350.000 euro di audio. Finalati con i lab group, con i 20K e con i 12K. Quindi, così. Anche se non te li ripagherai mai, però ce li hai. È un impianto che non contesta nessuno, perché a certi livelli l'impianto viene anche contestato, non stai facendo gruppi, niente, da togliere la musica folk, però. Quando sei in un certo livello ti vengono anche contestati gli impianti, secondo voi, per esempio il DB Opera, c'è il DB, poi c'è l'LSS, ce ne sono tanti che non tutte le produzioni di cui no, mentre tu l'hai non te lo contesta nessuno, non lo chiedono ma non te lo contestano, mi segui, quella è una semicircolare. Ma tu stai parlando di amplificazione, Outline o di anche difusori? No, l'Anarir, i difusori, il PA, sono 16 teste e 8 dopo i 18. I finali sono, infatti, finalati, Lab Group, li conosci Lab Group, interrogativi. No, non li conosco. Non sapevo, l'Autoline pensavo fosse addirittura fallita. Autoline facevano dei bellissimi amplificatori a livello professionale, ne hanno riempito tutte le discoteche, erano su Autoline. Non pensavo facessero anche impianti di diffusione sonora, cioè sì, li facevano, ma che fosse attualmente un marchio che andasse ancora bene. Ma scherzi. è il numero uno, cercalo, vedrai, c'è anche su Facebook la pagina Outline. Stiamo facendo dei diffusori, abbiamo fatto dei diffusori degli IDOS, si chiamano IDOS, poi ci sono le Vegas 28, no, Vegas 24, che sono due satelliti con due woofer, con due autoparlanti, diciamo, full range, e lavorano tipo coassiale, dove hanno un caricamento strano, o per filo diffusione o per locale. Se tu vai da Opus, guarda l'impianto che c'è, quell'impianto l'ho fatto io. Ed è tutto Outline. Poi dovevo andare a Sassari, l'ho fatto in tanti locali, l'impianto, ed è tutto Outline, e Obus è uno dei migliori. Bello, un impianto acustico che vado quando vedo quelle casse, rimango a bocca aperta, da Besca, le hai viste quelle line array lo stesso montate appese, da Besca, le hai viste? Eh sì, ma tu lo sai quelle casse lì, quello è un impianto autocostruito, lo sai, di quegli autoparlanti, quei woofer sono fermi, se tu guardi quando funzionano solo due sub e quattro tette piccoline, quell'impianto lì è un autocostruito ed è una merda, è roba per, diciamo, è arredamento insieme, però è una cosa originale, e diciamo che quando hanno alzato, che a volte che il primo periodo che hanno aperto lì, hanno alzato i volumi e suonavano, però ci mancherebbe, sta anche se è autocostruito una cosa, però suona, perché se tu in un bidone metti un woofer, un po' di rumore lo fa, bisogna vedere come era aperto. Sì, l'ho visto. No, non riuscivo a capire il marchio, infatti adesso mi stanno dando delle informazioni, io cercavo di capire che marchio erano quegli altoparlanti, come erano disposti, ho detto cavolo, un negozietto del genere hanno messo delle casse di un certo pregio, nel senso un bel woofer, un trivia, ho detto buh. L'altro giorno sono andato a una partita di calcio, a Senno, cioè l'impianto d'amplificazione, mi hanno fatto sordo perché era musica tipo carnevalesca o musica brutta, e c'avevano l'impianto della Bose all'aperto, io sono rimasto a bocca aperta alla potenza di questo impianto, non so quanti, vado in tribuna erano, c'erano queste teste piccoline della Bose e poi sopra c'era il sub, ma io ho detto buh, non è possibile che suoni così forte un impianto, qualitativamente non lo potevi apprezzare perché era tutto distorsione, uno schifo, bisognava sentirlo magari con qualcosa di buono, ma l'intensità sonora di questa roba mi sono spaventato considerando le dimensioni delle casse, ho detto non è possibile che faccia tutto questo rumore queste cassette così piccole. Sì, la Bose diciamo che è una hi-fi in alta potenza, quindi suonano bene, la Bose è una hi-fi in alta potenza e non si smentisce mai, però se gli chiedi, se gli, la Bose ha un limite, se mi fa oltrepassare quel limite non va, mentre con un impianto da esterno, vabbè, parliamo sempre di roba. Io non posso giudicare nessuno perché non sono nessuno per giudicare nessuno, però a volte senti dalla roba, mi dicono guarda ti piace questo impianto qua, l'ho pagato 600 euro, ho comprato 4 casse, gli amplificatori e un mixer. queste case di vita, queste cose. Secondo te come può andare? Io le cose dico in faccia, no? non nascondo, io quando mi fanno, me l'ha fatto vedere una volta una persona conoscente, ti piace capire, no, è una merda, è rimasto male, è una merda. Scusa un attimino, ma come fai tu a dire che questo qua poi si lanciano, è 5.000 watt, ma poi la gente si riempie la bocca con i watt, 5.000 watt, ma tu non puoi dire che hai pagato 800 euro intanto a 5.000 watt che poi infatti non sai neanche cosa sono, e vabbè ci serve la palamela per 20 anni, e me lo vuoi paragonare quando io pago quasi, quando compro due driver, quando compro due trombe da 3 pollici e costano 850 euro. Come fai? Bene, ma più del 90% delle persone non sanno cosa è l'alta fedeltà, l'ascolto della musica, non sanno distinguere uno strumento, tu gli metti il rumore a manettone, basta che faccia il rumore, quello lì è un impianto che suona, poi gli fai sentire l'alta fedeltà e rimangono così scioccati quando gli fai sentire un impianto. Purtroppo tu lo fai per lavoro, lo saprai molto più di me, ma io che ho l'orecchio abbastanza abituato, selettivo, mi rendo conto che il 90% di tutti gli impianti che ho ascoltato, anche di più, fate di schifo, proprio dico, ma guarda, ascolta, non è che è tutto distorsione, non c'è equilibrio, c'è predominanza di questa sezione, è tutto, no, guarda, io in vita mia posso dire di aver sentito non più di due impianti, come dico io che proprio dico sì, questo si avvicina alla realtà. L'impianto che ho io è discreto, però vedo dei limiti, mi accorgo che c'è dei limiti, vai, ascolta uno di tutte queste persone che dico io, rimango la bocca aperta, tutti quelli che ho fatto sentire sono rimasti scioccati, non se l'aspettavano, una qualità sonora, però per me non basta, perché si è abituato a sentire certe cose, certe frequenze, certi equilibri che non fanno. Poi ci siamo dimenticati i BEC di marchio di altoparlante, di casse, che probabilmente tu le conosci meglio di me. Sì, no, vabbè, te l'ho detto poco fa, la BEC che fa i componenti per l'offline, fa per offline, lo fa per Montarbo, lo fa per tutti, lo fa per tutti. Poi di BEC io ho 4 coni, i TBX 100 e poi ho i TBV 100 in 4 gruppi 18, ho dei TBX 100 e dei TBV 100. La differenza tra uno e l'altro è che il TBX scende a 35 Hz, 1200 watt digeribili, 8 ohm, un watt a un metro, cioè hanno una sensibilità, quei coni sono assurdi, mentre i TBV hanno lo stesso wattaggio, però scendono a 26 Hz di pressione, cioè muovono 26 Hz aria. Intercettibile, noi non possiamo, vabbè, anche lì c'è da parlarne per 20 anni, però hanno un bel caricamento reflex, quei coni fanno paura, sono mostruosi, mentre per i 21 pollici c'è gli RCF, gli L21 S401. Hai detto tutto, no? Stiamo parlando di prodotti di altissimo pregio che costano un sacco, già quanto pagavano quei woofer da 15 pollici che ho preso io, un prezzo da paura, però hanno una costruzione fenomenale, un'efficienza e una sensibilità che non è parli, bellissimi come suono, vorrebbero ancora regolati meglio i crossover, ho messo un crossover esterno elettronico, però abbiamo fatto con crossover passivo, voi usate ormai normalmente il crossover elettronico, tutto dedicato però direttamente collegato a una sezione, a un amplificatore già calibrato su quella banda lì, probabilmente utilizzate questi sistemi nuovi perché non si usano più i crossover. No, crossover io li odio, io crossover interni li odio, quelli sono la rovina dell'audio, tutti gli impianti, io lo stesso anche il... quando c'avevo le fucine erano biamplificate, avevano un finale, avevano un classico, classe A, un classe A, un classe A, mi segui, un classe A delle trombe, e c'aveva un classe AB, un classe AB che non era molto adeguato per le basse frequenze, però, perché per le basse frequenze ci vuole un classe D, però diciamo che facevo il suo sporco lavoro e gli davo 22 watt in tutto, erano 22 watt a canale, ma vabbè, non c'è storia. Erano quelle crotoparlanti lì, erano buono, lo so, ti emozionavano, ti facevano piangere di quanto suonavano bene. Vabbè, anche io gli impianti ne sento tanti, ne monto tanti, perché poi quando qui lavoro anche con altri, perché mi chiamano per montare il PA, quindi io quasi tutti i servizi della Sardegna io conosco vita morte e vira pure del loro audio. C'è gente che al GBL è incollato con la guaina rossa, con la gomma liquida, e poi c'è gente che porta autoparlanti, uno funziona e l'altro no, e poi c'è gente che spende soldi e lavora bene, ma lavora molto bene. Diciamo che nel cagliaritano sono un po' porcacciuto, beh, quello te lo posso garantire. Anche certi elementi di Sassari, dai, siamo un po' così. Vabbè. No, io l'impianto bello, gli impianti belli ne ho sentito tanti, e l'impianto bello è quello che c'era a Olbia alla fiera quest'anno, ed era Adamson. Ma tu poi alla fine quando ha suonato quello che era Blanco, quello lì sta dicendo? Sì, positivo, Adamson. C'ero là, cercalo, Adamson, l'impianto. È componibile, in pratica siamo l'anare unico, però c'ha i midi separati, c'ha doppio midi da 15 pollici, e due trombe da 3 pollici ogni settore. C'erano 24 teste per parte e 48 sub, doppio 21. Tutto. No, stiamo parlando già, non so quante migliaia e migliaia di watt, però migliaia e migliaia di watt di qualità, non stiamo parlando di mondezzina. A me mi fanno ridere quando sento io ho 4.000 watt, 2.000, ma di che cosa 2.000 watt? Di consumo di corrente o di potenza? Perché adesso sparano potenze di picco e per loro c'ho le casse da 2.000 watt, ma guarda, poi controlli, guardami l'assorbimento, assorbe 800 watt, per cui 800 diviso 2, massimo può avere 400 watt questa impianta appena fatta. Non è che ti stanno prendendo in giro, ma qua c'è scritto 2000 watt, potenza di picco, non è potenza RMS, un fondo non sanno neanche le leggi basilari dell'audio, della cosa, della fisica. E tu vedi questi coso cinesi, microaltoparlanti, ti vedono 1000 watt, dico ma quanti watt da 1000 watt se assorbe 50 watt questa cassa amplificata? La gente si fida, così leggono. Prima un po' c'era un po' di, quando scrive RMS dice almeno cacchio, si presume che si avvicina alla potenza dichiarata, perché anche succedeva molte volte l'amplificatore 100 watt RMS e a che tasso di distorsione ce l'aveva, e uso normale magari te ne dava anziché 100 ne facevi 70, perché se no questo era tutto distorto. E così succede adesso con questi prodotti economici, ti sparano potenze esorbitanti con le casse amplificate che saprai più di me, tu che le vedi marchiate con marchi gloriosi che ormai non esistono più, ci hanno ritirato il marchio e poi la gente si fa abbindolare queste cose. Vai, riprendi, capito? Sì, a voglia. Un giorno c'era questo tipo, diciamo, qua è sotto il carnevale, che si è presentato con questo impianto, un Skytech. Aveva 8 sub Skytech, 8 teste Skytech, quelle dopo 18 col piezo elettrico, questi sub, tutti gli amplificatori uno messo tra l'altro, aveva spacciato l'impianto per 20 watt. Infatti anni stavamo aspettando tutti quanti questo impianto da 20.000 watt, arriva questo furgone che se ne scende questo qua, tutto pomposo, non mai visto, tipo mai visto, e inizia a puntare questo impianto. Inizia a montare questo impianto, come abbiamo letto, come abbiamo visto, la mazza, veramente, boh, mia truffa. Allora, monta questo impianto, accende questo impianto, si è fatto portare un gruppo a 40 kW, questi tipi hanno fatto sacrificio per non vedere un gruppo a 40 kW, accende questo impianto, per poco lo picchiamo. Era di una schifezza esorbitante. Questo aveva pagato tutta quella roba lì, se non sbaglio, 2.000 euro, ma compreso i finali, compreso i cavi, cioè i jack, le casse invece avevo gli spiccoli, i jack, comunque. Sto facendo un discorso elementario, parte questo qua, suonavo questo impianto, e non le valfava, ancora è freddo. Partiamo in sfilata, io ci avevo 4 teste e 2 singoli 18, ma 4 teste outline, le SM15, e 2 sub singoli 18, tutto amplificato, diciamo tutto ben amplificato, triamplificato anzi. Vabbè, di ribasso a fianco, di ricurimo una pompata, porto l'impianto a meno 20 dB. Proprio ci fermava a fianco, lui il muro di casse rovinava anche il cuffato, perché non si dura, con questo muro di casse copriva anche il cuffato. Lui, io ho l'impianto, ho messo due sub vicini, no, accoppiati, cioè calibrato il delay, queste tette che gli schicco la tromba a 3 pollici e gliene staccava, proprio ti spaccava nel petto, ti spacca, perché poi a me mi piace quando la cassa schicchia, ma schicchia pulita, però mi segue. Infatti è venuto il padrone di quel carro, scusa, ma quanti watt ci sono qua? Ho detto qua se esageri ci sono 2 kW da assorbimento. Cioè, un casino nero. Ah, immagino. Poi mi ha detto piezo elettrici, vabbè, tutto il piezo elettrici addirittura quello. Sì, piezo elettrico, mi sembrava ogni altro parlante aveva 4 piezo elettrici. Piezo elettrico non fa scendere neanche gli ohm, quindi, perché è un carico, non fa scendere neanche gli ohm, è proprio uno schifo. Tu pensi a un piezo elettrico costa 3 euro. Quindi. Comunque, poi alla fine abbiamo visto sempre questi finali, lo sai cosa avevano dietro? Come uscita avevano, il classico capo spellato che ci può fare, il classico morsetto, con l'ingresso del segnale avevano gli RCA e basta. E gli faceva i ponti da un all'altro, questi RCA saldati, tutti quanti messi male, tutti quanti impazzito. Il sub dava il full range, quindi non avevi nessun tipo di bocca, non avevi niente, era presente, c'era una merda, figlio. Allora immagino, i piezi elettrici li usano per fare quelli per far scacciare i coso, i tubi, che per le ultrasuole che non li senti a orecchio umano, per far scappare gli animali, gli insetti e cose del genere, per cui stiamo parlando chissà di che mondezzina, la gente uno li vede, sono scenografi, allora queste trombe piccoline, belle, perché poi le caricavano anche a tromba, che era ancora peggio, era un rumore fastidioso, non esisteva l'alta fretta, era un fischio e boh, un fruscio e basta, continua. Le ho usate anche io a livello di gioco, dai, dalle casse di giocato le mettevi questi pezzi elettrici, che tanto tenevano una marea di potenza, non si sfasciavano mai, c'avevano solo quello di buono, però suono il vero, no? Infatti, e le dico, molta gente è fissata, più potenza c'hai e più quantità di suono c'hai, non funziona così, è tutto diverso, che conta la sensibilità e l'efficienza della cassa, perché tu puoi avere 1000 watt se la cassa c'ha 70 dB di efficienza e tu magari ne hai 100 watt e quelle c'hanno 100 dB di efficienza, gli fai 10 a 0 a un impianto, e che cosa è quello? Poi ci sono altri fattori naturalmente che funzionano, però la cosa principale è quello lì, la sensibilità della cassa. Io ho cambiato, ti ripeto, ho detto l'altra volta, le Infinity casse spettacolari, un suono da paura, però quando attaccavo le altre venivano oscurate con quell'alta efficienza, le Infinity un suono delicato, pulito, proprio potevi ascoltare la musica da camera, i violini, la voce perfetta, però poi quando devi ascoltare musica rock che ti serve volume, a parità di potenza con 5 watt ne butto intera la casa io con quelle casse che ho. Le altre che ho preso, queste nuove che sono grosse, enormi, sono un metro e trenta di altezza, delle casse danese Proac, quelli hanno 96 dB di sensibilità, ma confrontate all'altro, anche quelle lì hanno due woofer da 32, sono con doppio woofer, parliamo di casse uso domestico, non casse PA, eppure con quelle grasse, con quel monitor, con il woofer da 15 pollici, due vie sfigurano anche quelle. Quando attacchi il rock, quando devi sentire un pezzo di basso o di batteria che te ne butta dentro la cassa, ci vuole altoparlante, se non è altoparlante non va da nessuna parte. È positivo, solo ci vuole un bel medio basso, una bella attacca di medio basso, quella che ti fa male al petto è bella, eh? È bella. No, io Roberto adesso mi sto preparando, io stamattina l'ho tolto fuori, e guarda, io ho queste, per il carri uso queste Spectra, queste quattro Spectra, quelle erano le bruzzate, e ripeto qui sub di Victor Disco, e stamattina l'ho accesi qua a casa, stavo controllando perché erano quasi un anno fermi, però sono perfette condizioni. E quelli hanno 136 dB di pressione, e sono cervato a un metro, 126 dB, un watt a un metro, cioè pensa ora sono gli autoparlanti. Devo avere quel tipo di autoparlante così, perché con la musica che mettono queste ragazze mettono questa musica pesante, questa musica martellante, bam bam bam, ma è porca miseria. Quindi devo avere compromessi. E infatti con Marco, questo amico che ha la rivendita, abbiamo studiato, cioè abbiamo, mi ha cercato, ha detto la vita, l'unico comodo che si avvicina a pressione, a diciamo le stesse caratteristiche, e queste qua sono i 10, quindi abbiamo montato, ti ripeto, ci sono 4 TBV, 4 TBX100, per, diciamo, per i sub, poi ci sono gli infrasub che sono i TBU, che vanno dai, in pratica i TBX100 lavorano dai 110 agli 80, poi dagli 80 abbiamo tagliato un po' il crossover fino ad arrivare a 32, e poi lavorano poi le teste hanno il doppio 12 pollici, e tromba a 3 pollici, e tromba a 3 pollici ogni testa, sono 4 teste e 4 su. Quindi per i carri si usa questa roba qua, sono come finali, uso il QSC della serie MX2000, che sono trattori, ho 3 QSC per, diciamo, 3 QSC per le teste e 2 QVPA360, la serie tedesca della Rekunsein, che sono 3600 watt RMS a 4 ohm. Per i pulci, per pulirti le orecchie, altro che col tonfio, per pulirti il cerume delle orecchie, no? Sicuramente stiamo parlando già di cose di altissimo pregio. E dimmi un po', ma voi quando fate queste operazioni qua, tu te li metti amplificatori separati, ha detto tre amplificati, nel senso se c'è tre sezioni, c'è un grosso per elettronico, ogni volta devi regolarlo o ce l'hai già regolati già standard? No, sono i crossover dell'impianto, sono dei crossover offline, sono proprio crossover Spectra, capito? E hanno già i loro tagli dentro, tu devi solo raffinarli dal mixer. Io uso un mixer digitale, col tablet mi dà delle curve, diciamo, posso fargli le curve io, quindi ti parlo che gli elimino certe frequenze che a me proprio mi fanno pietà, perché io a me mi chiamo perché come non senti il rumore, come senti il suono, anche se tu lo senti, senti il volume è molto alto, però tu non te ne tappi, io dico che tu rimani a bocca aperta, capito? Io gente non è facendo, io la gente non ne faccio papare, perché io faccio venire, sì, molto probabilmente qualche bypass lo faccio partire, qualche pacemaker, se c'è il pacemaker ti parte, perché il sub che ho io a 60 metri, vabbè, se ti capita che mi vedi fermo, a 60 metri ti danno fastidio, le pelle ti danno fastidio, perché sono dei semi caricati a tromba, te l'ho detto, sono dei caricati a tromba reflex, e danno fastidio a 60 metri, ti spettinano. Stiamo parlando di quelle pressioni sonore, hai detto tutto, dai. No, se capita un giorno che fai vedere qualcosa, dai, se sarà molto piacevole per farsi gli occhi, dai, perché a me piace anche vedere, oltre che ascoltare, quando vedi certe cose. Sono capitato io 4 anni fa ad Alghero, più o meno 3 o 4 anni fa, e c'è un accoso dove c'era la vecchia, ad Alghero c'era la vecchia caserma dei carabinieri vicino al centro storico, una zona di lì, adesso non mi ricordo la via. E c'è un gruppo di ragazzi, sono tipo quelli dei centri sociali, cose del genere, dove si hanno preso tutta questa caserma e si fanno le cose loro, per dire chi fa pittura, chi compone musica, chi fa oggettistica, e poi c'è un paio di sale di registrazione. E ci sono tutti questi cassoni che si usavano una volta, tutta la componentistica GBL, cose che all'epoca costavano decine e decine di migliaia di milioni, non di euro, cose da paura. E avevo poi tanti altoparlanti, alcuni buttati in terra, cose così, diciamo appussi, e mi sono fatto gli occhi solo a vederlo, perché poi c'era una piccola saletta di registrazione, ma a livello amatoriale, però quando ho visto la componentistica, cioè, mi ho fatto le fotografie con questi cassoni altri 2,5 metri, 3 metri, con mega altoparlanti di vecchia generazione, roba vecchia, vari chissà dove l'hanno recuperati, smontati da altre case, ed erano tutti i grezzi con il laminato, diciamo, con il multistrato, e facevano questi caricamenti a tromba da paura che si usavano per dire 30-40 anni fa, perché adesso con sistemi molto più piccoli c'è la stessa pressione sonora. E tu dici, questa roba l'ha messo dentro questi locali piccolini, non tanto alti come altezza, 3 metri massimo, e c'erano questi mega cassoni, ho detto, ma questi accendi qua tremuta in terra il palazzo, era una cosa, e mi sono fatto gli occhi solo a guardarli, figurati poi con quello che mi stai dicendo tu. Allora, quelli, sai come si chiamano? Quelli sono due subwoofer della Ogus Group, si chiamano Og Scoop, della Mogal, sono dei Mogal, si usano, no, sono ancora, non sono, sono ancora in costruzione quei sub, esiste ancora, le fa, addirittura li costruiscono anche in Italia e li costruisce la Macchi, che diciamo che era vecchia Cabotron e queste cose qua, no? Tu sicuramente le conosci, e la Macchi li costruisce ancora, fa i doppi 18 Og Scoop, fa i doppi 21, sono progettati, sono dei sub che sono progettati per la musica reggae. Sono progettati per la musica reggae, sì, fanno la montagna degli altoparlanti, come sub sono molto efficienti e hanno delle pressioni sonore, perché poi montano il singolo 18, il singolo 21, quelli che fanno loro, questi Mogale, Super Scoop, sono, diciamo, come progetto viene, è una cosa giamaicana, come progetto è giamaicano, però hanno poi, cioè, si passano questi progetti qua, vengono qui adesso, li costruiscono anche in Italia, te ripeto. Sono per musica reggae, quei cassoni sono progettati più o meno per 400 watt RMS, perché hanno una sensibilità mega galattica, cerca, seguitici, ci sono anche i progetti su internet, si chiamano Mogal, Og Scoop o Super Scoop, poi ci sono i mini scoop, sono molto molto molto molto bene, sono molto bene, sono potentissimi, sono subterrassanti, infrasub, perché hanno un caricamento stranissimo dentro, perché poi vedi il woofer che è un pochino rivolto verso il basso e poi vedi lo scivolo che esce da sotto. Hanno un caricamento dentro fenomenale e sono molto efficienti. L'unica cosa che questi ragazzi non capiscono è che per portare con quei sub devono avere delle trombe serie, non devono mettere degli altoparlanti così come medio alto, medio bassi, però la musica reggae è anche quella, la musica reggae non ha diciamo delle frequenze molto belle nelle alte, sono diciamo musiche un po' crude, diciamo è un suono neutro. Sì, hai detto bene, infatti erano inclinati, forse quando capita vai, ti faccio vedere nell'altro cellulare, avevo fatto delle foto veramente belli impianti, però erano cioè, molto grezzi come coso, come rifiniture, non ne fregava niente. Stavo parlando con un ragazzo, però non ne aveva realizzati lui, volevo parlare con quello che l'aveva realizzato, ha detto qua non c'è in questo momento, forse arriva tardi, mi ha dato qualche formativa, però non era molto preparato diciamo in campo acustico, molte domande le ho fatte, ha detto guarda mi dispiace, io arrivo fino a un certo punto, queste domande mi stai facendo tu non erano, perché c'erano poi diverse tipologie di installazione, ci sono queste con i buffer rivolti verso il basso, poi contrapposti, push pull, un sacco di sistemi ho visto, perché probabilmente si divertivano anche a fare delle prove di lì, però erano micidiali. Poi vedevo una marea di altoparlanti interno, deve essere che li provavano un tipo, poi ne mettevano un altro, c'erano trombe della GBL, della Gauss, cioè di tutti i tipi e di tutti i generi altoparlanti, probabilmente hanno smantellato, come hai detto tu, vecchi Kaba, trombacchi o cose del genere, ne staccavano i componenti e poi li montavano di lì, perché quelli erano altoparlanti secondo me di generazione anni 70, anni 80, non era roba moderna, però cavolo, ho visto quei componenti, ho detto questi all'epoca costavano quanto una macchina, un'utilitaria, quegli altoparlanti della GBL, con i da 45, messe così, cose bellissime, poi lavori magari non rifiniti bene, però tutti questi sistemi di coso, non classica tromba, con come si chiama, tipo labirinto dentro, passaggio di aria labirinto, cioè sistemi molto particolari, probabilmente fatti da persone molto molto diciamo capaci e inoltrate nel campo dell'acustica, poi magari bisogna vederle suonando, non lo so, perché le ho sentite quelle piccoline nella piccola sala di registrazione e discretamente suonavano, però una cosa sentirle così, una cosa dargli un po' di volume e fare le prove, però è sempre bello vedere quando vedi certe persone che si dilettano a costruire queste cose, come quando tu ti diletti o io ci dilettiamo a costruire un'antenna, un sistema di sollevamento di traliccio, e vedere l'artigianalità, la manualità delle cose è più bello che vederle già belle che pronte. Riprendi Gabi? Sì, sì, è vero, è vero. No, no, ho detto che li costruisce ancora oggi la Bacchi, quelli lì, la Bacchi Technology, le costruisce ancora quei tipi di sub, capito? La Bacchi ha fatto la storia, tutti gli impianti di cinema, di giostre, di cose erano tutti della Bacchi, facevano, non forse la Reggio Emilia, donna Emilia Romagna, o sbaglio, qualcosa del genere. Sì, sì, a Reggio Emilia, sono a Reggio Emilia, ed è Bacchi e Cabotron è la stessa azienda, Bacchi e Cabotron, Bacchi, Cabotron, e poi c'è anche la Lombardi Amplificazione, quelli lo stesso robè erano, cioè, assurdi, assurdi, io ho sentito degli altoparlanti della Lombardi, e c'era la serie, i Lombardi c'era la serie CE1000, io l'ho sentito in una giostra, erano devastanti, erano bellissimi, ti facevano vedere la pelle d'oca, erano tre settori e avevano doppio 15 caricato come bassa frequenza, medio da 12 e una lente acustica come alta frequenza. Ma cioè ti sfoltavi tu, c'era gente, c'erano impianti suonando, quello sentivi, ti sfoltavi e sentivi sempre lui, dominava, era una cosa. qualcosa continua, era un suono che non stancava mai, era bello, dove ti fermavi sentivi questa risonanza delle basse frequenze, che era un qualcosa di spettacolare, era proprio un morbido, bello, ma impianti suonando forte c'erano le altre giostre, ma tu sentivi sempre questa cosa, questo tremore, ed era lui, Malatti. Sì, probabilmente l'ho sentito anche io, quando c'era, non so se era uno di quei giochi tipo ballerina, quei giochi di lì, l'avevo visto da Matterland, anzi sentito un suono da paura, un'amplificazione spettacolare rispetto al normale uso delle giostre che mettono solo distorsione e rumore, quello era un bellissimo suono equilibrato, probabilmente stavo dicendo lo stesso impianto. Io anni fa, che poi diciamo li ho buttati per prendermi i magneti, non so se li hai conosciuti tu, Cinemeccanica, che costruiva degli impianti di amplificazione per il cinema, e c'avevo questi woofer da 45, ne avevo 4 o 5, ed erano quelli sfondati, però si potevano riconare, erano di vecchissima generazione, anni 70, e io li ho smontati, quelli che mi interessavano, per recuperarmi i magneti, che ce n'è ancora uno in officina, lo usiamo per caricare cacciavite e cose, perché è potentissimo questa calamita, non riesci a attaccarlo, cioè se tu lo metti su un piano in ferro non ce la fai, devi metterci un cacciavite qualcosa e piegarlo, se non riesci, sfida chiunque a sollevarlo, talmente potente questo magneto. E ci avevamo questi Cinemeccanica, qualche anno fa, 2 anni fa sono andato a Piazza d'Italia, c'era una tromba della Cinemeccanica tutta in alluminio, sarà stata di apertura, sarà stata mezzo metro, forse anche di più, con il coso dietro, il drive, era una cosa spaventosa, pesava 20 kg questa roba qua. Ho detto quanto la stava vendendo, era una tromba però fatta con i, come si chiamano, tipo amido d'ape, non so se ce l'hai presente, se riesco a spiegarmi, quelle trombe enormi di un cinema era questa, ma la cosa da paura, io ne ho una di queste trombe che mi è arrivata tutta in metallo per un impianto a 2 vie, e se vedi sulle trombe peserà 10 kg di trombe di queste trombe, adesso è inconcepibile mettere una cosa del genere, però erano belli altoparlanti, costruiti in Italia, bellissimi. Vabbè, guarda che io sto parlando con uno. Allora io avevo le Prevost, avevo le trombe Prevost anidodappe, avevano era una tromba, era 56 cm di apertura, fatta anidodappe 56 per 40 era, anidodappe, e dietro aveva due magneti, aveva le due trombe che erano 20 ohm l'una. Erano 20 ohm l'una, e poi avevo la bassa frequenza caricata a tromba con il cono da 45 pollici, il parapolvere col buchettino e il caricamento sotto. Era l'impianto del cinema del Teatro Verdi, era l'impianto dell'ex Teatro Verdi, e l'ho venduto in continente, e dopo ti mando le foto di quell'impianto, dovrebbe avercela mia moglie nel telefono. Allora, la tromba, adesso ti ho detto Cinemeccanica, erano altoparlanti, la tromba che c'ho io, il driver, è della Prevost, ed è avvittato, guarda, non ti voglio dire fesserie, non pesa dagli 8 ai 10 kg, solo la parte posteriore, più c'è la tromba in lamiera, messo su una cassa, un woofer larga banda, un 15 pollici, lo usavamo quando facevamo le feste, e lui col altoparlante che non siamo riusciti a sfondare, perché tutti gli altri li sfondavamo tutti, non è durato, questo è l'unico che ci è durato, ma deve la tromba. Ma se conosci Prevost, sai di cosa sto parlando, era il drive, era una cosa da paura, impressionante. Poi dillo a me, ne avevo due, io le portavo con l'amplificatore della Cinemeccanica, erano finali in mono, erano amplificatori in mono quelli, e lavoravano con il fader in verticale, avevano lo slider tipo mixer per come volume, capito? Ed era in mono, c'era un amplificatore per la trombo, un amplificatore per le basse frequenze, ed erano finali che lavoravano a 20 ohm, capito? A 20 ohm, assurdi, quella tromba non voglio esagerare, ma sarà un 150 watt luminari, 150 watt RMS, era forte, era l'ex impianto del cinema, del Verdi, del genere, me l'ha regalato a Sandro, vabbè, poi intanto l'ha regalato Sandro, cioè a Sandro, che gli avevo venduto, fatto vendere un Montargo V5, quello a settori, e mi ha detto: guarda, per ringraziarti di questa cosa ti regalo questo impianto. Il padre era macchinista al cinema, però non mi ricordo se era o il teatro o il quattro colonne, forse era il quattro colonne, però non ti voglio una stupidaggine. Allora, vai, lo chiamo e me lo faccio più dire. Mi ha regalato questo impianto con i finali, con le basse frequenze, ma era un impianto alto 1,80 m, la bassa frequenza era alta 1,65 m, più la tromba sopra. E io la verità con quello l'ho preso, l'ho smerciato, me l'hanno pagato benissimo, l'ho venduto a un odiofilo di Bologna. Prevost, gli amplificatori erano della Cinemeccanica, e questo qua ha ancora tutti i proiettori. No, stavo parlando di prodotti di altissimo pregio, se va a costruire una cosa adesso con quelle caratteristiche, non so quanti migliaia di euro ci vogliono per farle, considerando la tipologia di materiali e la qualità dei componenti. Adesso sarebbe impensabile, perché con le potenze ce le hai con un amplificatore da mezzo chilo, con le prestazioni lì, però cavolo, costruire con quella componentistica, quello Prevost, ti sto dicendo, è da paura, tu lo sai più di me, quel Cinemeccanica, quella tromba che c'era in Piazza d'Italia, una solo ne avevano, l'ho messa su internet, sono iscritto a un gruppo di audiofili, tu non hai idea, la gente che la voleva compra, ma te la pago io, te la paghi 100, te la pago il doppio, tutto qua, alla fine ho lasciato perdere, la devo per comprare io, una bizza, una cosa enorme, se te ne cadi sui piedi ti spacchi, non so quanti chili potrebbe pesare quella cosa lì, con quella specie di feritoia fatta tipo un idolo, era enorme, tutto in metallo, in alluminio presuffuso, era uno spettacolo, anche se per dire, non la colleghi, era bella a vedersi, faceva scenografia solo così, ne aveva una soltanto di quelle, ma era veramente bellissimi prodotti. Me li aveva portati mio cugino, quelli della Cinemeccanica dei Prevost, avevano demolito il cinema dell'aeronautica militare a Coso, a Fertilia, l'aeroporto di Fertilia, che lui era di lì, e avevano svuotato tutto e buttato, e ce li stavano buttando, le aveva lì voi queste, mi hanno recuperato quel Twitter e un paio di woofer, mi ho preso, e poi quegli altri che ci volevano alcuni sono andati in malora, dai. Però ritornando indietro, cavolo, adesso si potevano riconare, te li metti su internet e li vendi, perché ci sono gli appassionati, come hai detto tu, gente audiofila, è come quando vendi una radio vintage, che sono pezzi che non trovi più, ed è un peccato buttarli. Riprendi, Davide? Sì. No, io ho venuto a... Guarda, dopo ti cerco le foto e te le mando. E ti mando anche le foto. A me Corrado della Matera mi aveva regalato delle Altec, lui il tappeto volante, se non ci ha mai fatto, aveva le Altec, erano malate, e siccome io a loro li fornisco, li faccio anche manutenzione agli impianti, mi ha detto: portati via quelle casse lì, perché io intanto devo prendere attivo. Quindi me le avevo portate via, ci aveva queste alte che lui, lo stesso Corrado, e poi erano delle Altec autocostruite, non erano originali, però erano uguali, identiche, le aveva fatte fare in continente, e di quelle ho le foto lo stesso. Vabbè, io devo fare un attimino di bianco, che devo mettere da mangiare ai cani, e se ci sei tra una decina di minuti rientro. Ah, vabbè, dai, adesso ho mangiato, domani mi devo alzare anche presto, dai, ma continuiamo l'altro giorno. No, le altre che facevano belle diffusori anche a livello domestico, c'erano dei belli altoparlanti a tromba, mi ricordo bene le altre, che bellissime casse, ma così, vabbè, magari meno qualitative le Cervimega, che andavano molto questi negli impianti da discoteca, perché erano molto le poche case che costruivano impianti ad alta sensibilità, altri che GBL, le Fostex, le come si chiama quello che ti ho detto prima, adesso non mi viene, le Gauss, facevano un sacco di roba, Cervin Vega, prodotti che non costavano eccessivamente, però erano paragonabili ad altri prodotti molto più costosi. Belle, le altre che cavolo, a farle adesso con le casse lì. Vabbè dai, vado via adesso, mi riposo un pochettino perché domani mi alzo presto. Capi, sempre un piacere ascoltarti, raccontarci e sentirci, dai. Quando capita, ben volentieri, stammi bene, ciao ciao. Sì, a Robe anche per me. Dai, grazie del consiglio, dai, grazie del consiglio. Oh, ci sentiamo tutte le prossime, Roberto. Buonanotte, buonanotte.